lungo i muri, i murales degli arrondissement, lungo i marciapiedi tra Pigalle e Banlieue, dove anche i tramonti hanno il colore dell'Ennè. Seguo col mio passo vellutato di felino trafficanti d'armi, affaristi di Pechino, spacciatori doppio sotto false identità, sotto l'ocra dei lampioni di questa città. E chiamami che tempo, chiamami che ora, chiamami che il cielo è vino tinto nell'aurora, chiamami che qui la vita è un'ala di farfalla e finalmente riesco a stare a galla. Messia di Dio, a parla abolissi si la visse pa male, a parla abolissi si la visse pa male, a parla abolissi si la visse pa male. Un, due, tre, quattro. Cimolo incognito mi chiamano Dupont, lungo i muri diavoli dipinti sui metro, lungo e lungo senna i suoi fantasmi di vinile che hanno la felina sporca e l'animo gentile. Nei quartieri neri che si muovono ondulanti tra stregoni, fattucchiere, parrucchiere, questuanti, c'è Sasi che sogno il mio soleil di Senegal e dice a parle a polis i sinavi se papà messie di po, messie di po. Si la visse pa mal, a parla polissi si la visse pa mal, a parla polissi si la visse pa mal. Un, due, tre, quattro. Scivolo in incognito mi chiamano Dupont, aquiloni sopra i tetti, antenne e parabol, dalle case cantano i poeti d'Almeria, dalle case battono i rintocchi d'Algeria. Chiamami che tempo, chiamami che ora, chiamami che il cielo è vino tinto nell'aurora. E se mi sento solo prego ma petit Thérèse che proteggi i diritti chi non ha rimborsi space. Messia di la polissi si la visse pa mal, a parla polissi si la visse pa mal, a parla polissi si la visse pa mal. Scivolo in incognito mi chiamano Dupont, a parla polissi si la visse pa mal, scivolo in incognito mi chiamano Dupont, a parla polissi si la visse pa mal, a parla polissi si la visse pa mal, a parla polissi si la visse pa mal.